Giovedì 30 novembre 2017, 87.9 la modulazione di frequenza. Ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Siamo al cinema, visionari ogni giovedì dalle 14 alle 15 e spesso e volentieri anche prima. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio, sempre sull'home page, colonna centrale alla voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo in collegamento con il nostro primo ospite, Davide Ferrario, regista del documentario 100 anni, in uscita in sala il prossimo 4 dicembre. Davide, ben ritrovato a Visionari. Grazie, ben ritrovati voi. Allora, raccontiamo un po' a chi ci ascolta questa operazione, questo progetto, Davide. Beh, è uno di quei film che vengono chiamati documentari per mancanza di un termine migliore, anche se non credo possa essere definito strettamente un documentario, certo. Visto che ci sono 5 attori, c'è del materiale d'archivio usato in una maniera un po' sperimentale, e sì, forse c'è qualche altro aspetto un po' più documentario. Ma credo che vada in quello che sto cercando di fare da tempo, cioè di dilatare un po' i confini tradizionali del documentario per provare a narrare pezzi di storia d'Italia, un lavoro che ho cominciato con Piazza Garibaldi, forse già con Strada di Levi, ancora 10 anni fa. Questa è in qualche maniera la terza parte di una trilogia che appunto vede Piazza Garibaldi come prima puntata, La zuppa del demonio come seconda, e adesso questo 100 anni che parte dall'anniversario del centenario di Caporetto per provare a ragionare sulle sconfitte d'Italia. Senti, come hai deciso di strutturare il lavoro? Beh, innanzitutto c'è un'idea di partenza di Giorgio Mastrolocco, che è lo sceneggiatore anche degli altri film, anche se è strano parlare di sceneggiatura per un documentario, ma come ho detto non un documentario tradizionale, certo. E Giorgio qualche tempo fa, vedendosi avvicinare l'anniversario di Caporetto, se ne è venuto fuori con un pensiero che non era marginale, cioè: ma perché noi italiani abbiamo bisogno di Caporetto? Perché questa Caporetto è un nome che poi è rimasto nell'uso comune per indicare disfatte che ciclicamente in tutti i campi della vita nazionale avvengono, e invece Vittorio Veneto no, perché insomma noi sembra che le sconfitte ci rivelino più cose, siano più importanti per il nostro subconscio che non le vittorie. Sì. Ed è vero che noi italiani abbiamo quasi bisogno, un bisogno morale, fisico, della sconfitta per mettere in moto le energie migliori della nazione, e tutto il Novecento, se lo guardi, ha questo andamento: un disastro, una catastrofe, una grande reazione nazionale, c'è la prima guerra mondiale, certo, ma basti pensare al fascismo, alla resistenza e anche tutto quello che è successo negli anni 70. Ed ecco perché allora questo film, che prova in 100 anni, appunto 100 anni del titolo, su quelli che vanno dal 1917 al 2017, a narrare attraverso 4 episodi un po' la stessa storia, per così dire, cioè perché noi italiani abbiamo bisogno della sconfitta, e soprattutto qual è il prezzo che paghiamo una volta che questa sconfitta è stata, come dire, risolta, è stata riscattata dalla Vittorio Veneto di turno. Sì. Senti, come mai la scelta di queste quattro tappe? In base a cosa rispetto a un respiro di un centinaio di anni? Beh, in realtà sono 4, se ce le seguiamo passo passo, sono davvero le tappe della storia italiana. Quindi la prima guerra mondiale, 1917 con Caporetto, e poi Piave e Vittoria. Subito dopo c'è il fascismo strettamente legato alla prima guerra mondiale, una conseguenza della prima guerra mondiale, e la resistenza a sua volta è legata come reazione al fascismo, ma soprattutto nello stesso episodio, che è tratto dal libro di Massimo Zamboni, L'eco di uno sparo, c'è un ragionamento molto affascinante sul dopoguerra, perché di solito siamo abbastanza così gratificati dal pensare che la resistenza ha riscattato tutto. In verità tante questioni lasciate aperte dalla guerra, dal fascismo e dall'antifascismo hanno trovato poi sfogo in quegli anni 60 e 70, che la mia generazione ha vissuto da giovane, e che sono stati una sorta di guerra civile strisciante, anche se oggi come oggi si fa fatica ad ammetterlo, ma era quella storia lì, e tutte le cose lasciate aperte dal secondo dopoguerra sono state in qualche maniera, sono riemerse negli anni 70. Poi certo finisce la lotta armata, finisce anche la forza di un movimento, e ci ritroviamo nella quarta puntata in questa Italia contemporanea che rispetto al Novecento è pacificata, non ci sono più i grandi massacri del Novecento. C'è una frase ricorrente in questo film che riappare proprio scritta, cioè: cosa servono i morti? Il Novecento è stato effettivamente un secolo di grandi stragi, di grandi massacri in nome di grandi idee, tra l'altro. E poi arriviamo invece a questo punto, quarta parte del film, che è la nostra Caporetto contemporanea, una Caporetto demografica. Non nascono più italiani, anche l'Istat due o tre giorni fa pubblicava queste statistiche che parlano per conto loro. Insomma, in pochi anni credo l'Italia come l'abbiamo sempre conosciuta non ci sarà. La domanda è come reagire a questa forma di Caporetto e qual è forse l'immagine di un italiano futuro. Senti, che forma di distribuzione si è scelta per questo tuo lavoro? Ma guardate, io da giovane non volevo fare regista, ma facevo il distributore. Ho cominciato con una cooperativa di distribuzione a 20 anni, e osservo molto attentamente quello che sta succedendo al cinema. Si potrebbe fare una piccola storia della distribuzione dei documentari in questi 20 anni, che 20 anni fa credo erano proprio totalmente esclusi dal mercato. Poi c'è stata fatta una battaglia che ha portato a distribuire i film documentari, almeno certi film documentari, quelli con un richiamo forse più forte, come dei film normali. Poi i documentari sono diventati un genere anche quasi di successo, direi, e si sono aperte altre strade che sono quelle della distribuzione sotto forma di evento, no? Molto spesso durante i giorni feriali, vedete, 2 o 3 giorni, come un po' come andare a teatro, sono occupati da film che sono latamente descrivibili come documentari. Ma credo che anche questa forma di distribuzione sia andata un po' in crisi. È in crisi tutta l'idea del cinema in sala, ahimè. Mi dispiace molto, ma uno deve prenderne atto, perché il mondo poi non va come vuoi, ma va dove deve andare. E quindi siamo tornati a una distribuzione in questo film tramite la Bottanta Film, che curiosamente è la società di distribuzione che fonda io 40 anni fa e che dopo 40 anni distribuisce per la prima volta un film mio. E siamo tornati a pensare a una distribuzione che si sgancia dalle sale, ma lavora piuttosto sul circuito off. E sì, certo, c'ha delle uscite in sala di qua e di là dove ci sono delle sale che lo permettono, ma principalmente girerà nei circuiti dove c'è un'attenzione ai film particolari, perché mi sembra che ormai il documentario sia stato un po' consumato anche come discorso nel cinema in sala. Sì. Senti Davide, sai più o meno già che circuito di sale sarà disponibile? So che un circuito, come dire, che non è identificabile con un circuito in senso stretto nazionale, sono più realtà locali, certo, che magari collegate a situazioni di sale o indipendenti o sale pubbliche che fanno un certo tipo di programmazione. Per esempio a Roma so che probabilmente usciremo all'Apollo 11 in questo tipo di situazione. A Milano stiamo al Cinema Beltrade. In Friuli, che dove ovviamente c'è un interesse particolare al film per via della storia di Caporetto, invece usciamo in sale normali. Stasera devo andare a un'anteprima a Bergamo, dove viene fatta nella sala classica dove la Bottanta Film distribuisce i suoi film. Quindi una molteplicità di situazioni. Sì, sì. Senti, possiamo anticipare che martedì prossimo la prima parte del tuo lavoro, quella dedicata a Caporetto, che poi è il formato che si distingue per una sorta di monologhi teatrali da parte di attori anche conosciuti, e che funzionerebbe perfettamente radiofonicamente. Come ti dicevo, il martedì abbiamo uno spazio dedicato al radioteatro e mandiamo in onda o spettacoli registrati o dal vivo in studio. E ti ho fatto questa proposta, ne abbiamo parlato anche con Lab 80, e è in occasione tra l'altro dell'uscita a Roma, proprio all'Apollo 11, una sorta di ulteriore veicolo di promozione, e quindi ci risentiremo martedì con la messa in onda di questi quattro monologhi. Sì, se mi fai dire una cosa qua, devo dire, adesso svelo un piccolo segreto del lavoro, ma io credo di aver fatto sempre un cinema molto poco di parole, molto di immagini. Sì, no? Sì. Per misurare se funziona quel il montaggio che non c'è, di solito io faccio, come dire, vedo il film ma non lo vedo, ascolto il film. C'è un passaggio in cui io non guardo la scena, sì, ma mi riverso semplicemente la colonna audio e me l'ascolto. E trovo che se funziona anche in audio, senza vedere il film, allora funziona anche con le immagini. È come dire, c'è una dimensione sonora dentro la quale, ma al di là delle parole che vengono dette, ma proprio come mondo sonoro che si crea, che se funziona quello, allora funziona anche poi tutto il resto. È una cosa curiosa, poi sembra in contraddizione con quello che con la mia idea di cinema, ma in realtà trovo che è invece rivelatrice di qualche cosa. Quindi va benissimo, secondo me, ascoltare quella parte di film alla radio, anche se poi credo sia poi meglio vedersela al cinema. Certo, soprattutto la potenza delle immagini dei sacrari militari dedicati proprio alla Prima Guerra Mondiale sono molto d'impatto, molto evocativi. Sì. No, sì, devo dire sì, anche lì noi ovviamente abbiamo sempre considerato, se io penso agli anni 70 mi avessero detto che avrei mai filmato un sacrario della Prima Guerra Mondiale, avrei pensato una follia. A Re di Puglia mi ci hanno portato credo a 13 anni con la scuola. Sì, a vedere sta roba, cioè era proprio un'idea di patria che uno rifiutava. Però devo dire che, riconsiderando questa la storia proprio della memoria dei caduti, che erano poi popolo, gente del popolo che è morta, molti dei quali proprio senza nome e senza una storia, è interessante vedere come il fascismo, che per il fascismo ha costruito questi ossari, abbia cercato di celebrarli, di celebrare quella memoria in una maniera istituzionale, ma dentro questi posti poi senti tutta un'altra voce, c'è proprio, come dire, la superficie fascistizzante, retorica del patriottismo più becero, ma dentro ci sono le storie dei singoli, anche quando non hanno un nome. Ma basta veramente pensare a questi nomi, questa catasta di nomi con una data, sì, di nascita e una, sì, data di morte, sì, pensare dal nome da dove arrivano, e davvero ti si affaccia proprio un mondo che è umano, non c'ha più niente a che fare col fascismo. Bene. Davide, allora io ti abbraccio e in bocca al lupo per quest'uscita. Ci sentiamo martedì anche per le date romane. Un abbraccio. Ciao, grazie, Davide. Ciao a tutti. Davide Ferrario, regista del documentario 100 anni, in uscita in sala il prossimo 4 dicembre. Fabrizio Ferrari, direttore della 16ª edizione del Rome Independent Film Festival alla Casa del Cinema qui a Roma dal 28 novembre, quindi da oggi fino, scusate, è già cominciato, oggi è 30, fino al 10 dicembre. Fabrizio, benvenuto, ben ritrovato a Visionari. Grazie, ciao, buongiorno. Allora, per chi ci ascolta, cominciamo, e non conoscesse questa esperienza, quali sono le caratteristiche di questo festival? Opere prime e seconde per i lungometraggi, documentari, tantissimi anche i cortometraggi e i corti di animazione, molta sperimentazione, nuove scoperte, in tutto abbiamo più di 100 film in concorso. E poi un focus dedicato al cinema spagnolo con 4 film, anche questi opere prime, e un focus sull'India. Senti, più o meno, oltre a questi queste due cinematografie, indiana e spagnola, da un po' da tutto il mondo provengono le altre opere? Sì, da tutto il mondo, dall'Argentina, Germania, Francia, Taiwan. Sì, diciamo che un po' da tutto il mondo. E, oggi alle 4 in particolare ritorniamo in Italia, abbiamo la masterclass del direttore della fotografia Luciano Tovoli, e poi al seguire una proiezione dei film in concorso. Ecco, a proposito di masterclass, sono previsti gli ospiti, i registi, gli autori di questi lavori? Sì, anche gli autori stranieri sono diversi, che saranno qui a Roma. Abbiamo per esempio gli spagnoli del documentario Uino, che sarà presentato domani. Poi abbiamo un film francese che viene presentato dal regista Falling in Out of Love, il titolo è in inglese, però il film è una produzione francese, con Anthony Delon. Sì, sono anche diversi registi di cortometraggi. Ieri abbiamo presentato The Neue National Gallery, il museo quello di Berlino, dove è venuta la regista Ina West. E poi ecco, naturalmente i registi italiani sono quasi tutti in sala a presentare le loro opere, che sono tutte in anteprima mondiale o italiana, e quindi ci sarà modo di poi confrontarsi con i registi, domande e risposte, e poter insomma discutere sul film con loro. Fabrizio, in veste di direttore che ha visto, penso, anche numerosi dei lavori presentati, qualche sorpresa rispetto ad aree geografiche e a tematiche? Oddio, anche quest'anno non è una sorpresa, perché ormai da 3 anni presentiamo alcuni titoli con tematica LGBT, e in particolare a Winter to Remember, che è dell'Argentina Cecilia Gioia. Poi sorprese, diciamo che i cortometraggi italiani sono tutti una sorpresa, a parte il cast, però ecco, andiamo un po' dalle commedie al dramma, alla tematica sui diritti umani e sulla violenza sulle donne. Anche questo ecco è un tema che ricorre, oltre 4-5 cortometraggi, 2 documentari e 2 lungometraggi hanno questa tematica, quindi non siamo andati a cercarli noi, ma sono arrivati, e quindi abbiamo fatto anche una rassegna dedicata. Senti, com'è strutturata una giornata di festival? Cominciamo alle 4, oggi presente alle 4 con La Muerte nell'Alcaria, uno dei film fuori concorso spagnolo. Poi abbiamo un documentario italiano, Beo, di Stefano Viali e Francesca Pirani. Stefano Viali partecipò al RIF con Lotta Libera 5-6 anni fa, era in anteprima europea alla Berlinale, poi lo presentammo noi a Roma, adesso quest'anno è presente con il suo documentario, e quindi in genere alla termine del documentario incontro con il regista. E invece nell'altra sala abbiamo la masterclass di Tovoli alle 18:30, Cronaca familiare, omaggio a Valerio Zurlini, dove verrà presentato da un critico cinematografico, e poi ancora un documentario, e poi un lungometraggio alle 22:15, Until the Drop of Sun on Earth di Hélène Neveriani, una coproduzione svizzera-georgia, un film bianco e nero molto particolare, racconta un po' diciamo una storia di prostitute nella città georgiana, insomma molto interessante. Poi ecco, sul sito del RIF si può vedere il programma completo con le sinossi, i trailer, le foto di scena dei film, quindi c'è veramente una scelta molto ampia quest'anno. Quindi più o meno la suddivisione per sale e gli orari è più o meno questa, il quadro è questo. Già da oggi è un po' un giro di boa del festival, e poi ecco venerdì, sabato e domenica, gli ultimi 3 giorni, e veramente abbiamo riempito tutte e 2 le sale, la Deluxe e la Kodak della Casa del Cinema di Roma, con tantissimi corti italiani, e quindi diciamo il fine settimana è stato riempito un po' dai progetti più interessanti, come per esempio ecco domani sera alle 22, Oltre alla nebbia, il primo film, opera prima di Giuseppe Varlotta con Pippo Del Bono. Ecco, ci hai detto del sito, a questo punto lasciamo tutti i riferimenti web per saperne di più. Sì, riff.it, il sito web, e novità di quest'anno, approfitto perché con Rai Cinema Channel i corti italiani si potranno vedere anche in streaming e essere votati dal pubblico direttamente sul sito di Rai Cinema. Questa è una novità di quest'anno, come anche 2 film in concorso, sia Winter to Remember, quello che dicevo prima con tematica LGBT, e Falling in Out of Love, saranno anche loro in contemporanea streaming sul sito indiefilmchannel.tv. Benissimo, Fabrizio, un abbraccio, un in bocca al lupo, un buon proseguimento. Grazie mille, grazie e buona giornata a tutti. Ciao ciao. Ciao. Fabrizio Ferrari, direttore della 16ª edizione del Rome Independent Film Festival alla Casa del Cinema, da cominciato il 28, andrà avanti fino al 10 dicembre. Pierfrancesco Campanella, regista del documentario I Love Marco Ferreri, in uscita in sala il 30 novembre, cioè oggi. Pierfrancesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Per chi ci ascolta, diciamo subito cos'è questo lavoro, di cosa si parla. Intanto saluto tutti gli ascoltatori. Sì. Buongiorno a tutti, quindi Marco Ferreri è un docufilm, più che un documentario, un docufilm che in qualche modo vuole non tanto ripercorrere didascalicamente la carriera di Marco Ferreri, quanto rispondere a un interrogativo: come mai un regista di così importante levatura, che ha segnato la storia del cinema italiano e internazionale, a 20 anni dalla sua scomparsa, sia stato rimosso dall'immaginario collettivo? Cioè, di Marco Ferreri in realtà se ne parla pochissimo, e il mio lavoro si propone appunto, in maniera un pochino particolare, di fare questa indagine sulle motivazioni che hanno portato a questa rimozione, diciamo. Probabilmente molte sono da ricercare nella concezione di Ferrari da parte, da come era percepito dal sistema cinema in Italia, dal sistema. Dall'essere definito anarchico, provocatore, insomma è un po' tutti questi, in genere quelle che si sentivano di più erano questi due termini in riferimento alla sua opera. Certo, c'è da dire questo, che lui ha avuto un grandissimo successo sia di critica che di pubblico, in alcuni casi, negli anni 60 e 70, quando il cinema in Italia era un qualcosa di completamente diverso e si potevano realizzare anche film trasgressivi, coraggiosi, fuori dagli schemi, come appunto quelli che ha fatto Marco Ferreri. Oggi diciamo, il cinema, ahimè, inteso come prodotto che va in sala, è un pochino, anzi no un pochino, è un po' tanto scaduto, e oggi sono altre le logiche che muovono il sistema cinema. I film vengono finanziati quasi esclusivamente dalle televisioni, che poi successivamente all'uscita in sala programmano il prodotto cinematografico, e quindi va da sé che non si possono fare film che in qualche modo non siano omologati a quello che è il prodotto televisivo. Quindi un film già in partenza, se è troppo poco adatto ai facili palati, in qualche modo viene penalizzato, perché le televisioni non lo finanziano, o comunque lo finanziano in maniera ridotta, e questo ha fatto perdere il coraggio di osare, di fatto venir meno un certo tipo di creatività totalmente libera e autonoma, che invece c'era in quegli anni. Sì. Ecco, quindi oggi come oggi probabilmente Ferreri non avrebbe neanche più ragione di esistere, così come magari Antonioni, Pasolini, registi che sono stati fondamentali nella storia del cinema, oggi troverebbero difficoltà a fare dei film, perché ripeto, c'è un'omologazione del gusto che dipende molto dal fatto che la maggiore fruizione avviene attraverso la televisione e attraverso i canali che non sono quelli della sala. Nel caso di Ferreri, si è mosso fin dagli esordi sulla scia di Buñuel e ha avuto comunque un respiro internazionale. Sì. E si è anche dotato di cast notevoli, anche la partecipazione di molti attori e attrici noti e note, insomma era per loro una sfida, ma era anche un piacere lavorare con lui. Sicuramente sì, riguardo al fatto che accennavi al discorso internazionale, teniamo presente che i suoi primi film li ha realizzati in Spagna, e poi successivamente quelli di maggiore successo, ne cito uno per tutti, La Grande Buffata, è stato realizzato in Francia, quindi era un regista di grande respiro internazionale. Poi è vero che le sue opere erano spiazzanti, facevano molto discutere, però spesso, grazie anche alla presenza di attori di grande richiamo, comunque erano dei film che incassavano molto al botteghino. Oggi purtroppo il cinema è cambiato, come dicevo prima, e di film che incassano molto al botteghino ce ne sono assai pochi, ahimè, e quei pochi sono tutte commedie omologate, lo sappiamo benissimo, oppure grandi colossal americani, vabbè, quello è un altro discorso, in America il cinema è un'industria, quindi è tutta un'altra cosa. Diciamo, infatti la risposta che alla domanda iniziale, chi ha ucciso Marco Ferreri, è indirettamente questa, è stato ucciso dall'imberbarimento culturale, dal degrado che c'è oggi nell'arte anche, no? Sì, sì. No, dovuto anche a tutta una serie di fattori, ma diciamo, io adesso non voglio demonizzare la televisione, però sicuramente ha una grande colpa nel declino del cinema. Sì, sì, sì, sì. Pierfrancesco, vai, stai continuando, scusami. No, di pure. Rispetto alla tua indagine, ti sei servito anche di volti noti del nostro cinema? Guarda, ho fatto una scelta a monte, quella di far parlare soprattutto addetti ai lavori, o persone di cultura, persone legate in qualche modo al mondo dell'arte. Però chiaramente ho messo anche due soli personaggi, diciamo, conosciuti dal grande pubblico, che sono Michele Placido e Piera degli Esposti, un attore e un'attrice. Sì. Perché giustamente anche serviva anche la testimonianza di persone che avevano lavorato con lui e in qualche modo lo conoscevano anche umanamente. Certo. Però per il resto è stata una scelta precisa, non ho puntato sui grandi nomi, sulle grandi interviste ad attrici famosissime e quant'altro. Ho preferito magari fare un prodotto che si diversificasse in qualche modo dalla concezione di documentario tradizionale. Sì, sì, sì. Senti Pierfrancesco, in uscita in sala come sarà distribuito il doc? Allora ti spiego. Intanto esce oggi a Roma all'Intratevere. Sì. Questa, diciamo, è una anteprima assaggio, sarà in sala una settimana. È un prodotto di nicchia, non ce lo dimentichiamo, quindi dobbiamo adottare una strategia che sia adatta alla tipologia di prodotto che abbiamo. Allora, adesso poi andiamo incontro chiaramente alle uscite dei grandi blockbuster natalizi, le commedie, cinepanettone, i film americani spettacolari, eccetera. Quindi l'uscita a tappeto in tutta Italia è rimandata in primavera, quando ovviamente avremo più spazio nelle sale per poter proporre questo film, che è assolutamente diverso, diciamo, da quello che normalmente appare nelle sale, perché raramente oggi come oggi i film documentario escono in sala. Oltretutto in questo caso è abbinato anche a un mio cortometraggio, che è una mia piccola dedica a Marco Ferreri, un documentario e un cortometraggio che si chiama L'amante perfetta, che è di stile surreale, grottesco, un po' folle, come potevano essere le sue storie. E anche questo ho fatto in solito, che è un cortometraggio extra in sala abbinato a un lungo. E diciamo che la vera programmazione avverrà in primavera, uscirà già contrattualmente, è tutto definito, uscirà in tarda primavera, però con un'uscita in tante città contemporaneamente, che ripeto è una cosa abbastanza difficile per una tipologia di prodotto così, insomma. Sì. Chiaramente. Sì. Senti, quali sono le caratteristiche della sua cinematografia che più ti hanno colpito, che ti sono rimaste più impresse? Guarda, io sono affascinato dal suo essere premonitore, cioè lui ha previsto già negli anni 60 delle tematiche che sulla solitudine, sull'alienazione, sull'incomunicabilità, sugli immigrati, tutte cose che sulla televisione, no? Sulla televisione intesa come televisione spazzatura, oppio dei popoli, tutte cose che poi puntualmente oggi, dopo tanti anni, sono più che mai attuali. Cioè, non erano in tanti ad analizzare all'epoca questo tipo di fenomeni della società. E oggi vediamo come il suo cinema è più che mai attuale, cioè lui veramente ha detto delle cose con grande anticipo sui tempi. Oggi, diciamo, quegli argomenti sono sotto gli occhi di tutti. Allora non era così, sì. E veniva quasi considerato un marziano, sì. Senti, questo aspetto mi affascina molto, proprio questo suo aver capito tutto prima di tanti altri. Sì. Oh, Pierfrancesco, in chiusura ci lasci dei riferimenti internet, se c'è un sito internet, una pagina Facebook dedicati al tuo film? Per la verità io ti confesso, sono un pochino negato per tutto ciò che è social, perdonatemi. Allora, c'è la mia pagina Facebook normale, dove sto parlando in questi giorni tanto ovviamente del film, certo. Però non ho né un sito del film né una pagina specifica del film. Se vuoi ho la mia pagina Facebook, che è aperta e libera, chiunque vi può accedere. Perfetto. Lì sto mettendo tante cose ovviamente in questi giorni, perdonate, chiedo scusa ai frequentatori del mio profilo, li sto inondando di rassegna stampa, di cose che riguardano il film, certo. Però d'altra parte, guarda, per me è già tanto, credo. Io fino a un anno fa non sapevo neppure cosa fosse Facebook, perché Ferreri, abbiamo detto che è un tipo un po' particolare, un po' strano, ma io pure non scherzo nel mio piccolo, sono abbastanza fuori dagli schemi e dalle regole. Benissimo. Per me è stata già una grande conquista, mi hanno obbligato letteralmente delle persone ad aprirlo, però ho fatto una grande fatica. Adesso devo dire che ci sto pure a prendere gusto, da una parte, perché pubblico molto. Sai, sulla strada della perdizione il difficile è scendere il primo gradino, poi per toccare il fondo ci metti un attimo. Ma guarda, comunque, come in tutti gli strumenti che ci vengono dati a disposizione, la cosa importante è l'uso che se ne fa, per cui sì, esatto. Benissimo. Beh, io sinceramente pubblico cose di lavoro, comunque faccio delle riflessioni di carattere generale su quello che succede sulla realtà che ci circonda, non mi metto certo a mettere cene, pranzi con amici o sono tre giorni che non vado in bagno, perché leggo veramente di tutto, gente che si mette con la flebo, io pure sono stato ricoverato recentemente in ospedale, ma me ne sono ben guardato, non solo di mettere fotografie nel pronto soccorso dove sono stato ricoverato su una barella, completamente vestito, parcheggiato in uno stanzone, me ne sono ben guardato, anzi forse avrei dovuto farlo come denuncia sociale, ma sì. Soprattutto non ho dato comunicazione del mio stato di salute. Ecco, diciamo, io il privato cerco di tenere al di fuori, perché ci mancherebbe. Sono cose che poi non interessano a nessuno, credo. Allora, Pierfrancesco, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. E a voi, io saluto gli ascoltatori, è stato veramente un piacere parlare con voi. Quando volete, io qua sto. Benissimo. Ciao, a presto. Buon proseguimento. Anche a grazie, te, ciao. Grazie ciao, infinite. Ciao. Arrivederci. Pierfrancesco Campanella, regista del docufilm I Love Marco Ferreri, in uscita in sala oggi, giovedì 30 novembre. Eccoci con Cristina Piccino per parlare della 37esima edizione del Filmmaker International Film Festival a Milano dal 1 al 10 dicembre. Cristina, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti, ciao Federico. Ciao. Allora, intanto io comincerei col dire che è una rassegna storica, insomma 37 edizioni sono un patrimonio, un bagaglio. Eh sì, è una rassegna lunghissima, io in realtà ci sono arrivata in tempi un po' più recenti, ma la frequentavo molto anche come spettatrice, c'era un po' questa abitudine di venire a Filmmaker subito dopo il Torino Film Festival, sì. E ecco, e quindi era un modo per scoprire delle cose che effettivamente erano del tutto innovative. Qui per esempio io ho scoperto i film di Frederick Wiseman o i film di Johan van der Koeken, e per citarne solo due, ma anche i primi film dei Dardenne, prima che diventassero i Dardenne da Palma d'Oro a Cannes. Sì. Ecco, proprio a questo proposito, per chi ci ascolta e non conoscesse il filmmaker, quali sono le sue caratteristiche fondanti e come poi si è evoluto nel tempo, almeno per quello che hai vissuto tu? Beh, le caratteristiche direi che sono intanto una estrema attenzione a tutto quello che è il cinema indipendente, senza retorica, nel senso che... Pronto, pronto? Proviamo a richiamare. Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlare del film Sami Blood di Amanda Kernel, in uscita in sala oggi giovedì 30 novembre. Paolo, ben ritrovato. Grazie, ben ritrovati a tutti, buon pomeriggio. Sami Blood esce oggi con Cineclub Internazionale Distribuzione in una distribuzione che vede come partner anche Cinemaf e Tycoon. Abbiamo scelto questa formula per poter offrire nei cinema italiani anche la versione doppiata, oltre a quella tradizionalmente distribuita da Cineclub Internazionale, cioè in originale con sottotitoli. Quindi in questo caso debutta la doppia versione nella storia di Cineclub Internazionale grazie ai partner di questa occasione. Sami Blood ha vinto il label Europa Cinema alle giornate degli autori di Venezia del 2016 e poi pochi giorni fa ha vinto il premio Lux del Parlamento Europeo, e questo è un premio molto importante perché viene attribuito dal Parlamento in seduta plenaria per i film che rappresentano in qualche modo i valori europei. Senti, un film importante al quale abbiamo dedicato anche la copertina di questa settimana con una foto di scena per parlare di uno dei tanti casi di minoranze etniche che subiscono un apartheid in qualche modo. Beh sì, questa è la storia appunto del popolo Sami ed è narrata in flashback perché la ragazza noi la vediamo all'inizio del film come anziana e poi ci racconta la sua storia. È una ragazza che rappresenta in qualche modo il percorso di liberazione, di emancipazione sia femminile che del popolo Sami, in questo caso in Svezia, ma il popolo Sami è suddiviso in quattro paesi: Svezia, Norvegia, Finlandia e Russia. Negli anni 30 e poi negli anni successivi questa discriminazione era pesante sia perché era basata su questioni razziali, ma anche perché c'era una divisione di frontiere. Noi siamo abituati a parlare e ne parliamo giustamente del problema curdo, del problema palestinese, ma il popolo Sami ha subito discriminazione, subisce una divisione anche di famiglie come siamo abituati a sentire di quegli altri popoli. Certo, non ha vissuto guerre, almeno questo rispetto a palestinesi e curdi è sicuramente un vantaggio. Però la storia che vediamo è particolare perché io direi un'emancipazione femminile che rappresenta anche l'emancipazione di un popolo, perché la regista è Sami ed è Amanda Kernel, quindi una donna, quindi ancora una donna nel catalogo Cineclub Internazionale, mi piace sottolinearlo, e la protagonista è naturalmente una donna, e questo percorso di liberazione è fatto con la determinazione e la caparbietà, cioè quindi senza armi, cioè in modo pacifico ma determinato, e si basa sulla liberazione, sull'ottenimento, la lotta e l'ottenimento della libertà di istruzione, che è fondamentale questo nel mondo, perché la libertà di istruzione legata all'emancipazione è un concetto secondo me molto molto importante anche in paesi come il nostro, non solo nei casi in cui c'è un popolo discriminato. E i Sami hanno anche la loro lingua, quindi la discriminazione è avvenuta su base anche linguistica, non solo quindi fisica e di opportunità, e quindi in questo senso la storia avventurosa, tutto sommato, racconta il film, riesce a catturare il pubblico come una normale storia di avventure che può vivere una ragazza che scappa e che cerca la sua strada. ma allo stesso tempo c'è il grande valore di parlare della liberazione di un popolo. Sì, sì, sì. Ecco, proprio in questo senso non conoscevo la storia in maniera così definita, ma insomma i Sami erano obbligati a frequentare collegi in cui si dovevano esprimere in lingua svedese, gli veniva misurata la testa perché erano considerati inferiori e poco intelligenti. E... sì, esatto, perché mettevano agli atti scientifici che le misure del cranio e quindi del cervello che conteneva dimostravano che avevano un'inferiorità razziale. Ora già il fatto di pensare a delle razze già è un falso scientifico, immaginiamoci se poi addirittura ad una presunta razza si attribuisce un'inferiorità. E loro comunque si sono difesi, infatti adesso la lotta che racconta il film appunto in questo modo comunque avventuroso oggi ha un successo, perché comunque sono pur sempre un popolo che non vive con le stesse opportunità di fatto degli altri, anche se legalmente sì, e parla la propria lingua, e infatti il film anche nella versione doppiata comunque la parte in Sami la conserva in Sami, proprio per mostrare la differenza anche drammaturgicamente tra lo svedese, che in questo caso è la lingua di imperio, e il Sami, che è la lingua in qualche modo sottomessa. E poi non solo, ma le scuole potevano essere frequentate fino a un certo grado, perché poi non venivano ritenuti proprio in grado di affrontare scuole. Perciò dicevo che la libertà di istruzione legata alla libertà to cure del popolo è un concetto molto importante che questo film sottolinea, perché lei, la ragazza, Elle Maria, decide proprio di scappare dal suo villaggio cambiando nome, proprio per poter studiare, perché capisce che preferisce fingersi svedese, studiare e poi con l'emancipazione che ottiene far riguadagnare a tutto il popolo la sua libertà, il suo diritto a essere istruito e a parlare allo stesso modo la propria lingua, quindi a studiare anche la propria lingua, e quindi questo è un tema sicuramente importante, quello dell'istruzione, perché infatti era proibito studiare in Sami e studiare oltre il livello della scuola media sostanzialmente o dei primi anni del liceo per il popolo Sami. E non è solo un problema, non era solo un problema istituzionale, perché erano proprio mal visti da quasi tutta la popolazione. Sì, esatto, perché erano considerati come un po' dei nomadi, sì. Ecco, nomadi lo sono per necessità, certo, naturalmente, certo. Perché si spostano in base ai cicli naturali e questo lo fanno ancora oggi. Mi piace sottolineare che le due sorelle nel film sono due sorelle reali e sono Sami anche loro, come la regista, quindi comunque potremmo considerarlo a tutti gli effetti un film Sami, anche se di produzione ufficialmente svedese, una coproduzione anche con la Danimarca, quindi una produzione scandinava, però mi piace sottolineare che tutto sommato da un punto di vista artistico lo si può considerare un film Sami. Sì. Senti Paolo, in quante sale? Questo appunto, grazie a questo partenariato, se riusciamo a uscire in un numero dignitoso di sale come prima uscita, perché usciremo in 20 sale e già ci sono altre sale previste per la seconda e la terza settimana, e pressoché in tutti i capozona usciamo, quindi da Roma, dove ci sarà l'evento stasera all'Apollo 11 con l'ambasciata svedese, poi Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Cagliari, Catania, ecco, e poi naturalmente andremo anche in profondità come al solito con la distribuzione lunga tradizionale di Cinecap Internazionale, e questo mi sembra un ottimo risultato considerato anche il numero alto di uscite di questa settimana. Benissimo Paolo, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Grepillupo, grazie a voi, buon lavoro. Ciao. Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione sul film Sami Blood di Amanda Kernel, in uscita in sala oggi giovedì 30 novembre. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta, e sempre sull'home page trovate nella colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione, come anche sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Bene, recuperata Cristina Piccino, ci stavi spiegando le caratteristiche fondanti del filmmaker anche nel corso degli anni e rispetto per quello di quello che hai vissuto tu da fruitrice, insomma. Sì, esatto, stavo spiegando appunto che la caratteristica principale è quella di una estrema, di una bella attenzione al cinema indipendente e non in senso retorico. E qui sono passati quei registi che poi abbiamo imparato a conoscere, e qui per esempio io ho scoperto Frederick Wiseman, i Dardenne, e altri grandi documentaristi e filmmaker che poi appunto negli anni sono diventati più famosi. E al tempo stesso la specificità è proprio quella di una di cercare di legare l'attività del festival a una presenza tutto l'anno sul territorio, in modo da costruire una serie di relazioni con i più giovani, con i filmmaker, con chi vuole fare cinema, ma con chi vuole anche scrivere o programmare e imparare a fare un festival. Senti, quali sono le caratteristiche di questa edizione? Quante le opere che verranno presentate? In cartellone ci sono almeno 100 titoli, tutti di formati molto diversi, perché negli anni da Festival del Documentario Filmmaker si è progressivamente aperto a quello che è fuori dal genere, quindi ci sono anche film di finzione, ad esempio abbiamo La Fabbrica de Nada, che è stato un po' uno dei casi di cinematografici all'ultima edizione del Festival di Cannes, un racconto di una fabbrica occupata dai propri operai, che insomma a partire da un Portogallo in crisi mette un po' in luce quelle che sono le grandi problematiche dei nostri tempi contemporanei. La retrospettiva è dedicata ad Alberto Grifi nel decennale della morte, ma anche qui l'idea, più che una celebrazione, era quella di andare a cercare la lezione di Alberto Grifi nelle attività di filmmaker più giovani che l'hanno conosciuto, che con lui hanno scoperto delle altre possibilità di fare cinema. Mi viene in mente Danilo Monte, che appunto ha cominciato a raccogliere i materiali di Grifi, a lavorare con lui, e poi ha deciso di cominciare a fare cinema lui stesso, e tanti altri ragazzi, soprattutto a Milano, perché Grifi negli anni 90 è stato lungamente presente a Leoncavallo e in altri centri sociali con la sua attività di videomaker, crescendo delle giovani generazioni. Magari non tutti sono diventati registi, ma hanno continuato a fare immagini in altro modo. Il nucleo di quest'idea di indipendenza e di invenzione di cinema che c'è in Alberto Grifi, un po' alla fine ci siamo accorti, ha circolato in tutto il programma, sia nel concorso internazionale che raccoglie 10 film, tutti inediti in Italia, e si va da Lech Kowalski, che presenta il suo ultimo lavoro, lui verrà qui, ha avuto un processo in Francia in questi giorni che si è rifiutato di abbandonare un luogo dove filmava gli operai che saranno protagonisti del suo prossimo film, quindi è stato arrestato, ha passato la notte in prigione ed è stato accusato di ribellione. Il film che presentiamo noi invece è girato in America e si chiama I Pay for Your Story, ed è una sorta di raccarrellata di incontri con i cittadini di Utica, dove lui viveva da ragazzo, nell'America di oggi, ed è un bellissimo ritratto dell'America di oggi. Ci sono poi registi come Sgnadeci, che fa un film sul confine tra Messico e Stati Uniti, ci sono anche molte proposte giovani italiani nel nostro concorso prospettive, con una fascia d'età che va dai 22 anni di Caterina Biasiucci, opera prima di una giovane regista napoletana, Appunti per la mia famiglia, ad altre diciamo un po' più grandi, ma la caratteristica del concorso italiano è quella appunto di rimanere sotto i 35 anni. Abbiamo poi come ospite un grande maestro del cinema moderno e contemporaneo come Alain Cavalier, che presenterà per la prima volta in Italia la sua serie dei 6 ritratti, un'esperienza molto bella di cinema attraverso il tempo, attraverso una serie di personaggi, tutti uno diverso dall'altro. Bene. Cristina, a questo punto ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sulla programmazione? Certo, il programma è sul sito del festival www.filmmakerfest.com, c'è la pagina Facebook Filmmaker e trovate tutto quanto, programma, schede, appuntamenti. Voglio anche ricordare che il 2 dicembre si inaugura la mostra di Prospettiva Grifi in mostra, che è la parte installativa della retrospettiva dedicata ad Alberto Grifi, con una grande installazione con i materiali di Parco Lambro, con moltissimi materiali inediti che sono stati appena recuperati e restaurati dalla Cineteca Nazionale e insieme all'Archivio Grifi. Quindi è una bellissima occasione per riscoprire questo, direi, super classico del nostro cinema, anche se ancora forse non ha trovato il posto che merita, e anche per riscoprire con i protagonisti di chi verrà di quel momento di Parco Lambro tante altre storie che si intrecciano nel tempo. Il tutto, i luoghi del festival sono il Cinema Arcobaleno in Viale Tunisia, lo Spazio Oberda, e da quest'anno abbiamo un nuovo luogo, il Festival Center alla Casa del Pane, l'ex Casello Ovest di Porta Venezia, dove ci sarà anche un bistrò per chiacchierare con i registi, gli ospiti, insomma, per continuare a stare insieme. Cristina, un abbraccio e a risentirci presto. Un abbraccio a te, grazie. Ciao. Cristina Piccino per la 37esima edizione del Filmmaker International Film Festival a Milano dal 1 al 10 dicembre. Giorgio Gosetti, direttore della 27esima edizione del Noir in Festival a Milano dal 4 al 6 dicembre e a Como dal 7 al 10. Giorgio, ben ritrovato. Buongiorno, siamo in due città, in due direttori, Marina Fabri ed io, insieme a Gianni Canova per l'Università della Yulm, e vi diamo il benvenuto e vi aspettiamo prima a Milano, all'Anteo e alla Yulm e alla Fondazione Feltrinelli e poi a Como al Teatro Sociale. Per chi non lo conoscesse, cos'è il Noir in Festival? È la più importante rassegna europea di cinema, libri, televisione, convegnistica, fumetto, graphic novel, dedicata a tutti i territori del Noir, quindi quei racconti in cui bene o male c'è di mezzo un assassino, un delitto, un furto, una truffa, tutto quello che è la parte, diciamo così, malata della nostra società, che però può essere raccontata in forma di thriller, in forma di giallo. Ci sta l'Agatha Christie di Assassino sull'Orient Express, che noi accompagniamo in sala in questi giorni, piuttosto che il melodramma romantico come Mia cugina Rachele con il romanzo di Daphne Murier, che diventa cinema grazie a Rachel Weisz, con cui noi apriamo il 4. Ci stanno i più bei noir e storie similari del cinema italiano di quest'anno, per capirci Amore e Malavita dei fratelli Manetti, piuttosto che Gatta Cenerentola di Alessandro Racche e degli animatori napoletani. Quindi insomma un viaggio a tutto tondo attraverso il genere più popolare in assoluto della letteratura, del cinema, della televisione di tutti i nostri anni. Senti, per lo specifico cinema, quali sono le offerte? Noi abbiamo fatto un programma che ambisce ad essere proprio quello di un vero festival internazionale, anche se muoviamo dal cuore di un'università, quindi un luogo anomalo per un festival come siamo abituati a vederlo, e quindi 8 film in concorso arrivano un po' da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Inghilterra, dalla Finlandia, uditi uditi, alla Malesia. Quali raccomandare? Beh, insomma, l'oste pensa che tutto il suo vino sia molto buono, i film sono tutti in anteprima assoluta italiana, internazionale o mondiale. Un titolo, You Were Never Really Here, di Lynn Ramsey, è uno straordinario film con Joaquin Phoenix che daremo a Como il 7 di dicembre. Un altro titolo, l'ho accennato, Mia cugina Rachele, con cui apriamo fuori concorso il 4 sera all'Anteo. Un altro titolo ancora, in chiave un po' fantasy, un po' famiglia, un po' mistero, Wonderstruck di Todd Haynes, oppure addirittura una Mrs. Hyde, avete presente Jekyll e Hyde, al femminile con una fantastica Isabelle Huppert nella parte di una veramente cattiva maestra. Senti Giorgio, dal tuo punto di vista, visto che si tratta anche di una 27esima edizione, come si sta, dove si sta, come e dove si sta muovendo il noir a livello internazionale? Ah, intanto mi piace pensare come si sta muovendo il noir italiano. Per la prima volta, grazie alla collaborazione con la IULM, abbiamo aperto un premio proprio per il miglior film di genere italiano dell'anno. Sono molto orgoglioso che gli 8 finalisti, gli Hateful Eight, che abbiamo scelto con Gianni Canova, siano accompagnati da tutti i loro registi, davanti a un pubblico giovane e a una giuria popolare di ben 100 ragazzi e studenti della IULM o delle altre università milanesi. E lì si può dire dove si sta muovendo il noir, perché ho citato prima alla rinfusa un paio di titoli, ma potrei pensare a Sicilian Ghost Story di Grassadoni e Piazza, potrei pensare a Omicidio all'italiana di Macio Capatonda, c'è dentro la commedia, c'è dentro il musical, c'è dentro il disegno animato, c'è dentro il noir classico come Falchi di Tony D'Angelo, che secondo me è uno dei più bei film della stagione, troppo poco visto, oppure I figli della notte di Andrea De Sica, che è un film duro a cavallo quasi fra il realismo documentario e il cinema di finzione. Quindi si sta muovendo a 360 gradi. Pensate a Blade Runner 2046 di Denis Villeneuve. È fantascienza? È noir? È Philip K. Dick l'ispiratore? È hard boiled perché il vecchio Harrison Ford ricorda tanto Philip Marlowe? Noi lo riassumiamo un po' in quello che sarà il protagonista cinema di quest'anno, che è Abel Ferrara, un altro irregolare matto. A cui diamo il premio alla carriera di quest'anno, oppure in un grande maestro del genere d'azione come Enzo C. Castellari, a cui vogliamo rendere omaggio con il premio intitolato alla memoria di Luca Svizzeretto. E nel cuore diciamo che mettiamo un film, anzi mettiamo due film che vengono dal passato. Uno è forse il più bel noir italiano mai fatto, L'odore della notte di Claudio Caligari, a cui intitoliamo da quest'anno il premio per il miglior film italiano di genere dell'anno. L'altro è Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme, che è sicuramente uno dei racconti di paura più sconvolgenti del XX secolo e di cui abbiamo l'orgoglio, insieme al BFI, di presentare la versione restaurata in 4K, unici in Italia. Giorgio, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente sì, tutto il programma lo trovate su www.noirfest.com. La cadenza delle proiezioni è mattina con incontri personaggi alla IULM a via Carlo Bo a Milano, pomeriggio ancora cinema italiano alla IULM, sera appuntamenti con la letteratura alla Fondazione Feltrinelli dalle 6 di sera e con il cinema al Palazzo del Cinema Anteo dalle 6 di sera e poi dal 7 tutti al Teatro Sociale e alla adiacente Sala Bianca, più o meno con lo stesso ritmo di appuntamenti quotidiani. Un personaggio assoluto da non perdere, me lo ricorda Marina Fabbri, è Margaret Atwood, una delle più grandi scrittrici di questi tempi, ma anche l'autrice di una serie come il racconto dell'Ancella, che molti hanno visto, spero, perché sta sulle piattaforme in questo periodo e che sarà il nostro ospite d'onore. Giorgio, con te ci diamo appuntamento... Dobbiamo fare le classifiche di fine d'anno. I tuoi 5 film preferiti tra un mesetto, diciamo, a fine dicembre. Certo, ma intanto vi aspettiamo a Milano e a Como. Ricordatevi che si entra gratis, bisogna dirlo, perché gli spettatori hanno i loro diritti. Certo. E quindi mi fa piacere, a cominciare da Federico Raponi, se lo vedremo fra Milano e Como. Un abbraccio, ciao Giorgio. Un abbraccio a voi. Ciao. Giorgio Gosetti, direttore della 27esima edizione del Noir in Festival a Milano dal 4 al 6 dicembre, a Como dal 7 al 10. Roberta Torre, regista del film Riccardo va all'inferno, in uscita in sala oggi giovedì 30 novembre. Roberta, ben ritrovata e benvenuta. Ciao, grazie, benvenuti a voi. Allora, per chi ci ascolta, che storia è questa?

Allora, il mio punto di vista sulla follia è appunto quello, direi, per dire una cosa alla Basaglia, visto da vicino nessuno è normale, no? Quindi questo è sempre, secondo me, molto vera, questa cosa è sempre molto valida. È chiaro che poi la follia si inserisce all'interno di tante situazioni diverse, la più pericolosa forse è quella che noi viviamo nella normalità, un'apparente normalità che invece sottenda una follia profonda di base. E in questo, Riccardo, c'è anche molto questo aspetto, perché c'è appunto anche una follia familiare, sì, che è spesso molto presente nelle relazioni, affettive all'interno di ogni famiglia. Sì, sì, sì. Senti, da oggi nelle sale, quante sale? Allora, sono circa 80 sale sparse su tutto il territorio nazionale con Medusa. Ah. Sì, soprattutto sono sale, diciamo, che vanno cercate, nel senso che abbiamo cercato di fare una distribuzione, hanno cercato, insomma, Medusa ha cercato di fare una distribuzione molto accurata, molto mirata, proprio in qualche modo anche per chi desidera cercare un film che sicuramente non, come dire, deve essere amato in partenza, ecco, perché ha dei codici anche piuttosto particolari. Certo, certo. Io ti abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a presto. Ciao Roberta, ciao. Roberta Torre, regista del film Riccardo va all'inferno, in uscita in sala oggi, giovedì 30 novembre. Danilo Licciardello per parlare della 14ª edizione del Festival delle Terre, premio internazionale audiovisivo della biodiversità 2017 al Cinema Trevi qui a Roma da oggi fino al 3 dicembre. Danilo, ben ritrovato. Grazie, ben ritrovato a te Federico, ciao. Allora, questo festival lo stiamo seguendo da un po' di tempo, raccontiamolo un po' a chi ci sta ascoltando. Sì, 14ª edizione, grazie, infatti, se ci seguite da qualche anno. E quest'anno un festival un po' diverso, insomma, il Festival delle Terre è organizzato da un'organizzazione non governativa, Crocevia, Centro Internazionale Crocevia, e negli anni, insomma, è un po' cambiato, da un festival di cooperazione per cui molti lavori che trattavano assemblee di villaggio oppure raccontavano progetti di cooperazione internazionale, nelle varie edizioni, insomma, si è sempre un po' più avvicinato al documentario di sala e crescendo pure nel numero dell'offerta, insomma. Quest'anno abbiamo 31 lavori e non c'era Pitson quest'anno, nonostante avessimo introdotto da 2 anni la Pitson, quest'anno non ce l'abbiamo, però ci sono 31 lavori corti, medi e lunghi, diciamo, abbiamo un formato triplo. Delle anteprime mondiali, una, varie anteprime nazionali, varie anteprime romane, e ospitiamo dei lavori che hanno alcuni testi da indagare. Senti, siamo più un programma più ricco del solito. Senti, più o meno quante sono le opere? 31, di cui 20 in concorso. Ok. Quindi, senti, quest'anno sono un bel po'. Per quello che hai visto, tematiche ricorrenti? Diciamo, le 3 sezioni che caratterizzano un po' il festival sono terre resistenti, i popoli nativi, racconti di divinità e preservare il pianeta. Okay. Diciamo, dentro queste 3 dimensioni ci sono gli oggetti dei lavori che proponiamo. Molto land grabbing, appunto accaparramento di terre, che un po' caratterizza il nostro festival. Lo studiamo sempre lavori che trattano questo tema, perché con Crocevia, insomma, siamo vicini, sosteniamo, cerchiamo di aiutare le organizzazioni contadine internazionali che spesso si occupano di resistere a questo fenomeno. E acqua, mare, molti coordinamenti appunto internazionali anche di pescatori sono aumentati nella partecipazione, quindi vedremo anche qualche cosa che riguarda un po' l'aggressione ai mari e varie nazioni, insomma, vari posti del mondo. Sì, c'è molta Africa. Quest'anno il festival è dedicato a Thomas Sankara come edizione del 2013. Di questo, nonostante la mia voce plumbea e sonnolenta, siamo molto felici perché dormito poco, mi dispiace, mi scuso con ascoltatori e ascoltatrici, però siamo veramente contenti di questo, perché abbiamo l'anteprima mondiale di Burkina Raiki, che è un film di Yara Lee, una regista che seguiamo da anni, e ha fatto un bel film proprio in Burkina, raccogliendo le testimonianze dell'ultima rivoluzione e raccontandole in maniera, diciamo, distaccata da un punto di vista, ma seguendo la storia degli artisti che hanno contribuito alla rivoluzione. Nel focus ospitiamo un lavoro di Abdul Compaoré, un regista burkinabè, e da cui ci facciamo un po' raccontare questa rivoluzione e le sue il suo sviluppo, insomma. Sì, sì. Cioè, è andato bene da una parte, insomma, sappiamo che il dittatore, il Compaoré, è stato cacciato due anni fa, però sappiamo anche che la rivoluzione non ha avuto un compimento, ma come spesso facciamo a Crocevia, ce lo facciamo raccontare dai diretti interessati, insomma, dalle persone che lì ci vivono e lì partecipano alla vita del loro paese. Questo è molto interessante, vi invito a venirlo a vedere, entrambi i lavori. Sì. Senti Danilo, rispetto alla terra e alla sezione che gli avete dedicato, per quello che vedo io, due sono i macro problemi. Uno è la depredazione delle risorse e l'altro è la discarica che diventano per altre nazioni. Sì, sì, purtroppo è proprio esattamente così. Insomma, non ci sono dei segnali contrari, nel senso che la tendenza ad accumulare appunto inquinanti e poi riversarli in altri paesi prosegue. E prosegue anche nei mari. La novità positiva è che prosegue anche l'incremento, la crescita di partecipazione ai movimenti di resistenza. So che in Italia sembra buffo sentirlo, insomma, perché siamo un po' fermi rispetto ai movimenti di resistenza, ma anche qui crescono. In giro qua e là per il mondo crescono un po' più rapidamente, per fortuna, e questa è la parte buona, insomma, della storia. Però sì, tendenzialmente non c'è un'inversione di tendenza da parte delle multinazionali che poi gestiscono gli inquinanti. Anzi, ti ringrazio la domanda perché mi dà modo di citare l'altro focus che c'è oggi sugli NBT, che probabilmente il pubblico conosce meno. Non mi lancio in una spiegazione tecnica perché si tratta di genome editing, quindi si tratta di ingegneria genetica dedicata al vivente, alle piante, sì. Però quello che posso dire con certezza, insomma, è che il grosso del mondo scientifico, i genetisti, l'ha definito nuovi OGM, o comunque allerta al pianeta su questo. C'è stato un intervento di Crocevia l'altro ieri alla Camera dei Deputati, cercando di portare all'attenzione del governo italiano questo tipo di problemi, e riproporremo un piccolo focus appunto oggi per approfondire. Però è materia nuova, interessante, perché chi cerca di far entrare gli OGM dopo 30 anni che sono vietati in Europa è dalla finestra, insomma, con delle caratteristiche particolari. Ci sono dei filmati nuovi, delle interviste, degli interventi in sala che ci raccontano un po'. Sì, sì, e sì. Poi c'è una novità. Ci sei ancora? Sì, sì, ti seguo. Scusate. Una novità che a noi fa molto piacere, insomma, quest'anno ospitare per la prima edizione il premio Abdel Salam. Questo è venerdì pomeriggio con un focus lavoro alle 6. Ospitiamo appunto questo premio per ricordare questo operaio morto durante un picchetto con un megafono in mano. Gli ascoltatori dell'ascoltatrice radio lo conosceranno certo, la storia certo. Abdel Salam, e quindi abbiamo pensato di fare questa cosa insieme a Iside Onlus, a una sindacale di base che ha organizzato questo premio. Quindi una novità grossa rispetto al Festival delle Terre, perché veramente si è occupato di lavoro in questi termini, ha sempre lavoro nei campi, lavoro nei mari. In questo caso c'è un po' un filo che lega le migrazioni, i popoli nativi, le persone che vengono da altre parti del mondo a lavorare qui. E in questo caso, cioè, è particolarmente importante che Abdel Salam già aveva risolto il suo contratto, non era più precario, però lottava per i diritti di tutti quanti gli altri, insomma. Sì, sì, per sì. Cui questa è una cosa che ti devo raccontare, insomma. Sì, sì. E molti altri film, insomma, oltre a questo. Ecco, proprio per A proposito di questo, Danilo, in chiusura ti chiedo i riferimenti internet per saperne di più. www.aldevedete.it, e lì c'è tutto il programma con le sinossi, gli orari. Si parte oggi alle 4:15, e non è vero, si parte oggi alle 5, ho sbagliato, e si chiude domenica, quindi facciamo 4 giorni abbastanza intensi, insomma. Bene, bene. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, e a risentirci presto, Danilo. Grazie, ciao. Grazie, aspetto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Danilo Licciardello, della 14ª edizione del Festival delle Terre, premio internazionale audiovisivo della biodiversità 2017, al Cinema Trevi qui a Roma da oggi 30 novembre fino al 3 dicembre. Pierfrancesco Lidonni, regista del documentario Massimino, c'era una volta la Fiat, un bambino, ed Ettore Scola, che sarà al Filmmaker International Film Festival il prossimo 3 dicembre. Pierfrancesco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao ragazzi, grazie per avermi invitato. Allora, già è un titolo affascinante, di cosa si parla, Pierfrancesco? Allora, sostanzialmente io l'anno scorso ho partecipato alla prima edizione del premio Zavattini, per cui diciamo il bando chiedeva di confrontarsi con il riuso creativo del materiale d'archivio, e mi sono concentrato su alcuni lavori di Ettore Scola, i lavori dell'impegno civile, che fra l'altro lui aveva girato a Torino, per cui Vorrei che vola e Trevico Torino, e vedevo insomma questo bambino, soprattutto in Vorrei che volo, che si muoveva ai margini della città operaia, e avevo voglia di ricamare sopra questa storia un nuovo film, no? Proprio un sì. Racconto totalmente nuovo di creazione, mentre in realtà quando poi vado a cercare nei faldoni di produzione dei documenti che potessero diventare utili per la costruzione del film, scopro il nome del bambino e lo vado a cercare. E per cui cerco nell'archivio della stampa di Torino tutta una serie di informazioni e scopro che questo ragazzo ha passato più di metà della sua vita in carcere, mentre per Scola, nel film di propaganda Vorrei che volo, che era stato commissionato nel 1980 dal Partito Comunista, questo bambino incarnava la speranza di un futuro migliore. Da questa, diciamo, racconto qui, da questa tesi costruisco questo cortometraggio di 19 minuti che verrà appunto presentato a Milano domenica. Sì, sì. Senti, il titolo? Guarda, il titolo in realtà, questo bambino si chiama Massimo, si chiamava, adesso è un uomo adulto, si chiamava Massimo, ma Scola lo chiamava Massimino perché erano molto legati. E nel film in realtà racconto la Fiat, perché ci sono anche delle immagini di Trevico Torino, viaggio nel Fiat Nam che aveva girato Ettore Scola nel 1973, e racconto proprio anche la relazione che c'è tra Scola e questo bambino, utilizzando delle immagini che casualmente ho trovato negli archivi Rai, in cui proprio Scola interagisce con questo bambino, in qualche modo segna la sua vita, perché lui dice tu diventerai un giornalista della Rai TV. In realtà questo bambino, che appunto doveva rappresentare l'emancipazione dei figli della classe operaia, diventa più là nel tempo brutto, sporco e cattivo. Sì, sì, sì, sì. Senti, mi sembra una favola nera, quella, l'utopia rispetto a una classe lavoratrice che poi invece si è scontrata con i problemi del vivere sociale qui in Italia, soprattutto nelle metropoli industrializzate del nord, e dove c'è stata droga, dove c'è stata malavita, dove c'è stato carcere. Esattamente, ma poi la cosa interessante è che nelle 1970, quando il Partito Comunista chiede a Scola di girare Trevico Torino, viaggio nel Vietnam, in realtà c'era un'operazione da parte del Partito Comunista che voleva in qualche modo entrare all'interno delle fabbriche, sì, no? Sì. Era il momento in cui stavano per nascere le autonomie, per cui il partito diceva non più un partito della fabbrica, ovvero i sindacati, sì, e i collettivi, diciamo, operai, ma un partito della fabbrica, nella fabbrica, cioè il Partito Comunista che riusciva a entrare nelle fabbriche. Poi questa operazione è completamente fallita, cioè loro chiaramente il Partito Comunista è riuscito poi a governare Torino per tanti anni, l'ha governata anche abbastanza bene con Diego Novelli, ma è crollato quel mondo là, sono crollate le ideologie e ci siamo ritrovati in una Torino che è raccontata oggi, quella Torino operaia, una città spettrale, no? La Fiat non è rimasta nell'immaginario, ma non è più centrale nella vita della città. E questo la dice lunga anche di questa trasformazione, no? Si alterna la vita dell'operaio, proprio nel racconto del film si alterna l'alienazione della vita dell'operaio con la precarietà marginale dei dimenticati, dei diseredati, di chi non ha nulla completamente. Sì, sì. Senti, qual è la realtà che hai trovato tu oggi girando questo lavoro? Ma allora, intanto chiaramente Torino non si può raccontare, certo, solamente attraverso questo personaggio che è rappresentante di se stesso, mi verrebbe da dire. Certo, certo. Una cosa che mi ha fatto particolarmente impressione è stato che quando abbiamo provato a fare un lavoro di ricostruzione filmica, insomma, volevo mettere questo massimo, volevo attivare un circuito virtuoso in cui lui cercasse veramente lavoro, nel trovo lavoro di Torino non c'era più nessuno che offriva lavoro, e questo mi ha dato molto da pensare, come paradossalmente erano i giorni di Natale. Mi ha dato molto da pensare anche il fatto che in quel momento in Piazza Castello c'era questo albero di Natale alto 32 metri, che era 5 metri più alto di quello dell'anno precedente, come dire noi non vi possiamo dare più il welfare state, ma vi diamo le lucine di Natale, in una città che in quel momento viveva per la prima volta, diciamo, è il primo Natale della giunta Appendino, no? E quindi la giunta Appendino ha segnato un percorso di discontinuità con le spese pazze, in qualche modo mi verrebbe da dire, della precedente giunta, e invece l'albero di Natale era più grande, per cui c'era anche questa costruzione, secondo me, sul consumismo abbastanza particolare. Sì. Poi Torino è una città affascinante, si sente ancora che è una città del sud ed è una città operaia. Sì, sì. Ancora dicevo in un'intervista, sì, tra l'altro, e poi mi fermo, che Torino era la terza città meridionale più grande d'Italia dopo Napoli e Palermo. Sì. Senti, dopo il filmmaker, che circuito farai? Ma io penso che proverò a lavorare sulla circuitazione porta a porta di questo lavoro, che è chiaramente un lavoro difficile da distribuire perché è un cortometraggio. Sì. Quello che però prevede il premio Zavattini, essendo un premio con licenza Creative Commons, è che questo film verrà distribuito sul web, per cui esiste già una pagina internet del premio Zavattini, che è www.premiozavattini.it, ma io credo che questo film continuerà a fare un percorso di festival all'interno di festival anche di cortometraggio, e si vedrà più o meno in altre parti d'Italia. Sicuramente verrà visto a Torino, penso a gennaio, e poi sicuramente farà dei passaggi a Roma, a Palermo e a Napoli, insomma, che sono le città in cui mi muovo poi e in cui ho la possibilità di portare i miei lavori. Bene, a questo punto un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, magari a voi, Federico, anche prego, per le prossime novità. Esatto, grazie mille. Ciao Piero, un abbraccio, buon lavoro e buona trasmissione. Anche a te, ciao, ciao, ciao. Pierfrancesco Lidoni, regista del documentario Massimino, C'era una volta la Fiat, un bambino, ed Ettore Scola, che sarà al Filmmaker International Film Festival il prossimo 3 dicembre. Con lui chiudiamo questo appuntamento settimanale con Visionari. che torna giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page trovate Ascolta la diretta. E poi c'è, per saperne di più sulla scaletta e sulla trasmissione, sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce trasmissioni visionari, una pagina, e poi c'è la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, e poi c'è l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.